sul pianeta, ma anche per mangiare più sano, meglio, e perché no, anche per spendere un po' meno probabilmente. La prossima sfida è anche quella di diffondere consapevolezza su una corretta alimentazione, buona per noi e buona per il pianeta, anche nei cosiddetti paesi emergenti, dove ancora, diciamo, un maggior benessere economico coincide ad esempio con l'adozione di uno stile di vita e di uno stile di consumo più occidentale e potenzialmente anche meno sano. Quello che vediamo ad oggi dal nostro osservatorio è che però, come dire, il consumo consapevole, il consumo più responsabile è associato a preoccupazioni, diciamo, si fa perché è più sano, perché è più buono per noi. La nostra sfida è far capire che è più buono anche per tutti noi e per tutto il pianeta. La solidarietà sul tema della fame, infatti la campagna si chiama Per un futuro senza fame, ha due principali linee, quella della solidarietà e del sostenere gli 8 progetti che appoggiano piccoli produttori contadini, e dall'altro lato però, oltre al sostegno ai nostri progetti, che coinvolgeranno 20.000 persone, se riusciremo a raggiungere l'obiettivo della nostra raccolta fondi con l'invio al 45503, chiama in causa anche noi come cittadini responsabili e soprattutto come consumatori responsabili, perché il tema della fame, è bene chiarirlo, non è dovuto alla mancanza di cibo. Nel mondo si produce il cibo sufficiente potenzialmente per sanare 7 miliardi di abitanti. Il problema è che il sistema alimentare è pieno di storture, di iniquità, di ingiustizia e bisogna aggiustarlo. Noi abbiamo 925 milioni, secondo i dati della FAO, di persone a rischio di insicurezza alimentare, o meglio di fame, e al tempo stesso, sempre secondo i dati della FAO, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare, nel mondo vengono sprecati 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo ogni anno, per cui la situazione è questa: una persona su 7 nel mondo soffre la fame e più di un terzo del cibo prodotto viene buttato via. Cambiamo argomento, ora parliamo dell'ultimo rapporto COP su consumi e distribuzione, l'appuntamento annuale che fotografa il paese attraverso il carrello della spesa della maggiore catena italiana della grande distribuzione. Un annus horribilis per i consumi, il 2012, ci dice il rapporto, per le famiglie italiane il più difficile dal dopoguerra. Vincenzo Tassinari, presidente di COP Italia, lancia l'allarme prezzi. Guai se si darà il via all'applicazione dei rincari dell'IVA. Assolutamente sarebbe un errore strategico. Perché? Perché siamo nel pieno di una tempesta perfetta, crollo dei consumi dovuti alla caduta del potere d'acquisto delle famiglie, del reddito delle famiglie, fortemente falcidiato dalle manovre governative. Il 2013 sarà peggio perché rispetto ai 2.500 euro circa del 2012 di manovre governative avremo più di 3.000 euro, e sta intervenendo un altro elemento devastante che non può passare in silenzio, che è quella di un'inflazione che sarà nel 2013 del 5% circa, un dato assolutamente allarmante. Se a questo si aggiungesse anche l'aumento dell'IVA, indubbiamente le famiglie italiane, per loro sarebbe assolutamente una situazione insostenibile. Serve che il governo ci chiami attorno a un tavolo, noi della distribuzione moderna, che indubbiamente abbiamo svolto in questi anni un'azione virtuosa di cambiamento dei prezzi insieme all'industria, perché noi dobbiamo rimboccarci le maniche e fare la nostra parte per stare dalla parte dei consumatori, per tutelare il loro potere d'acquisto, non per peggiorarlo. Dai social network agli orti urbani ci faranno viaggiare on e offline le nuove tendenze nei consumi. Ne parliamo tra pochissimo nel focus sui trend della settimana, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Con la sigla di The Newsroom, serie TV evento di quest'anno che racconta il dietro le quinte di un canale di informazione, rientriamo in studio per la seconda parte di Essere Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Quella di oggi è una puntata di scenario, vogliamo anticipare quali saranno i temi, alcuni dei temi della prossima stagione, che cosa si vede all'orizzonte in fatto di nuove tendenze nei consumi. E anche quest'anno a guidarci nella caccia di segnali dal futuro c'è Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie Maria Luisa, ben ritrovata anche a te. Saluto chi è in ascolto. Anche nel giornalismo, ecco perché abbiamo aperto con The Newsroom, come nella comunicazione to cure, l'interazione, la condivisione è diventata una parola chiave. Per parole chiave, Patrizia, ti chiederei proprio di procedere in questa prima puntata. Quali sono quelle che ritroveremo in questa nuova stagione di consumi? Parleremo di tendenze e subito si affaccia la parola cool o trendy. E allora cominciamo con il ribadire in questa prima puntata che il cool, inteso come apparenza, vistosità, come l'effimero, di fatto è morto. Cioè quell'idea di tendenza, di coolness che ha imperversato nell'immaginario mediale e prepotentemente ci ha fatto da guida dicendoci cosa e come si doveva desiderare, e che ha cambiato di segno in questi anni attraversando la crisi. Ormai dal 2008 sono 5 gli anni, si è andato via via associando all'utile, quindi a nuovi concetti. Oggi cool è il nuovo che si innesta nel quotidiano, che lo migliora, è l'innovazione sia sociale che tecnologica che dà soluzione a problemi tutti i giorni, dal co-housing, quindi alla vita, alle applicazioni digitali, eccetera. Quindi useremo la parola innovazione, e l'usato è innovativo nel senso di riciclo, di riuso, così come il baratto, una delle parole chiave protagoniste di un'altra idea di consumo che cominciamo ad avere tutti sotto gli occhi. Correlato al baratto, il nuovo panorama delle cosiddette nuove monete o monete alternative. I casi sono molti e interessanti, li racconteremo, come Generous Store, il Temporary Store di Anton Berg, storico marchio di cioccolato di Copenaghen, in cui si è acquistato cioccolato pagando con buone azioni scritte sulle confezioni, di fatto erano i prezzi prestabiliti, da promettere su Facebook e poi da compiere. Il beneficiario ringraziava con la stessa modalità, pubblicando cioè su Facebook, sia il benefattore che, attenzione, questa è la cosa importante, il marchio. Altra parola chiave che useremo è smart, un termine riferibile sia alle strategie di consumo e di acquisto, quelle intelligenti, creative, quindi vedremo le evoluzioni del social shopping e delle alleanze tra consumatori per spuntare prezzi, ma anche per usare e disporre di prodotti e servizi in alternativa al loro acquisto e al possesso. Quindi di nuovo il panorama degli scambi di vicinato, i prestiti temporanei, eccetera. Ma appunto smart riferito anche ai nuovi gesti dei consumatori. Consumatori connessi, dotati di smartphone, appunto, che cominciano a fare acquisti pagando, per esempio, con il telefono, che diventa anche in Italia entro l'anno carta di credito, in buona sostanza un portafoglio. Anche le città, i prodotti sono smart, si parla di smart city, cioè sono potenziati dall'innovazione tecnologica che rende le città più sostenibili, più vivibili, e i prodotti più tracciabili e più trasparenti. Terremo d'occhio naturalmente il mondo delle start-up, non solo quelle digitali ma anche e soprattutto quelle analogiche, e altra parola quasi a rischio usura, i makers, gli artigiani. Seguiremo da vicino l'evoluzione della scena del nuovo artigianato d'avanguardia, quello che ormai è il presente artigiano non solo del Made in Italy ma con casi, come sempre nelle nostre puntate, anche internazionali. Altro termine cui dedicheremo spazio: Societing, è in uscita il libro Societing Reloaded, cioè il marketing e il sociale che sono sempre più intersecati, e tutto questo, come anticipavi, collegato a sharing, altra chiave di lettura dei consumi. Parleremo molto di condivisione e di collaborazione in tutte le loro espressioni, con casi che raccontano cosa fanno oggi le persone comuni, dagli aiuti solidali di vicinato al citizen journalism, al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali sulle piattaforme di crowdsourcing, eccetera. Anche solidarietà, grazie, è il caso di dire in questo caso, alla crisi, è diventata una delle parole chiave nel mondo dei consumi. Il nuovo saggio di Zygmunt Bauman parla proprio della necessità di passare dall'economia dell'egoismo a quella della solidarietà. Eccone un'anticipazione. Quanto profondamente e irreversibilmente il mondo sia cambiato nella sua transizione alla fase liquida della modernità, è dimostrato dalla timidezza delle reazioni dei governi di fronte alla più grave catastrofe economica verificatasi dalla fine della fase solida, quando ministri e legislatori hanno deciso, quasi per istinto, di salvare il mondo della finanza, ma anche i privilegi, i bonus, i colpacci in borsa e le strette di mano che suggellavano accordi miliardari e ne consentivano la sopravvivenza. Quella potente forza causale e operativa che è stata alla base della deregulation e principale paladina ed esponente della filosofia dell'inizieremo a preoccuparcene quando accadrà, di pacchetti azionari suddivisi in parcelle, rimasti immuni dalla responsabilità delle conseguenze, di una vita che si basa sul denaro e sul tempo presi a prestito e di una modalità di esistenza ispirata al godi subito e paga dopo. Tutti, unanimemente, approvano il fatto che l'ordine dell'egoismo abbia preso il sopravvento su quell'ordine della solidarietà che un tempo aveva il suo vivaio più fertile. Patrizia, inutile dirlo, ritroveremo anche tutto il discorso sostenibilità, ecocompatibilità, eccetera, un discorso ormai imprescindibile nei consumi. Sì, ormai parlerei di super eco, cioè la sostenibilità totale, il total green, che è quella veramente cercata dai consumatori oggi, cioè quella a 360 gradi che va dalla filiera alla comunicazione. Quindi i brand sostenibili saranno definiti come tali solo se saranno coerentemente totalmente green. Vedremo quindi nuovi casi anche legati a energia e mobilità. Per esempio in Giappone, nella zona di Osaka, si può già utilizzare l'energia accumulata nelle batterie della Nissan Leaf, il modello di auto elettrica più venduta al mondo in questo momento, per la luce di casa, quindi zero emissioni, nuova formula di risparmio energetico. Parleremo anche di cibo nelle sue molteplici evoluzioni di consumo in casa, nel fuori casa, in particolare di social food, cioè il cibo al centro dei social network, delle esperienze offline, cibo consumato sempre e ovunque. Parleremo della nuova bistronomia, cioè dei negozi bistrò, le botteghe, ristoranti, l'evoluzione dei locali e dei cosiddetti secondi locali, degli chef stellati, quelli che un po' come le seconde linee delle collezioni moda sono economicamente più accessibili, quindi spazieremo anche nella scena della ristorazione. Altro mondo ricco di cambiamenti, il temporary retail. Descriveremo le evoluzioni dei concept dei nuovi negozi temporanei che molte città stanno riqualificando, per esempio parti dismesse del territorio urbano. Un esempio è Box Park, un vero centro commerciale pop-up a Londra. A tutti gli effetti viene definito un pop-up mall, è il primo al mondo, costituito da 40 containers che sono stati recuperati, rinnovati, ha aperto i battenti alla fine del 2011, rimarrà aperto per 5 anni. Una puntata sarà dedicata al gioco, in uscita tra l'altro il numero monografico di Link proprio su questo tema, gioco sia come gamification, cioè i meccanismi di gioco con premi applicati alle vendite e al marketing, ma anche gioco riferito letteralmente ai videogiochi che stanno tra l'altro trasmigrando dalle console al web, e dei nuovi mini videogiochi come i Pong, lo storico bastoncino con pallina da colpire, che adesso si può fare addirittura al semaforo mentre si aspetta il verde per attraversare. L'idea è venuta a due studenti di Göttingen che hanno creato e installato questo mini gioco appunto sul palo dei semafori. Ovviamente saranno onnipresenti i brand e le loro strategie di creazione di valore in tutte le puntate, al di là dei temi che tratteremo. Parleremo però anche di storytelling dei brand e di vetrinizzazione dei prodotti, cioè le nuove narrazioni sia dei mondi di marca che dei processi produttivi, cioè la messa a nudo o la messa in scena del dietro le quinte di prodotti che diventano contenuti di comunicazione e di eventi. E poi parleremo di orti, dalla puntata pionieristica di Essere Avere sul gardening del 2007, in cui già parlavamo di bombe di semi, di guerriglia gardening e di urban farming. Guarderemo da vicino l'evoluzione dell'orto, che ormai è arrivato nei salotti delle case. Home gardening, micro giardinaggio, si chiama appunto, di massa. Non a caso celebrato anche in quest'ultima edizione di MACEF, il Salone Internazionale della Casa, nell'edizione autunnale. Orti che entrano anche a pieno titolo nei programmi di formazione manageriale. Molte aziende, un esempio è Whirlpool, per esempio insegnano ai dipendenti a piantare insalata all'interno di di programmi specifici sul benessere dei lavoratori. Non mancheremo di parlare di contaminazioni, per esempio, tra consumi e arte, di consumi culturali, con puntate dedicate al fumetto o a temi più filosofici, come appunto la solidarietà citata nella scheda, ma sempre con esempi molto concreti, molto dal basso, dal mondo dei consumi. Cosa c'è di nuovo a... Immancabile l'appuntamento anche quest'anno con la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Alessia, quali saranno le città da tenere d'occhio quest'anno per scoprire appunto cosa c'è di nuovo? Ciao Maria Luisa, un bentornato a tutti. Dunque, anche per le città le parole d'ordine saranno intelligente e verde. Perché intelligente? Per le strade sarà sempre più frequente imbattersi nelle tecnologie digitali integrate nell'arredo e nelle infrastrutture urbane. A Londra, ad esempio, i cestini per i rifiuti di ultima generazione sono dotati di due schermi digitali su cui scorrono in tempo reale gli orari dei mezzi pubblici, le previsioni del tempo, l'agenda degli eventi locali, la pubblicità, ogni genere di informazioni. A Parigi schermi touch interattivi sono integrati invece alle pensiline degli autobus e permettono a passanti e viaggiatori di trovare nelle vicinanze delle fermate gli indirizzi più utili in base ai loro interessi attraverso un sistema facile e intuitivo di geolocalizzazione. Insomma, lo spazio pubblico sta diventando la nuova piattaforma relazionale attraverso cui istituzioni, aziende, brand e consumatori dialogano. Seconda parola, dicevamo verde. Un esempio su tutti, New York, che dopo il successo della High Line sta progettando la Low Line, ossia la vecchia stazione sotterranea della metropolitana di Delancey Street sarà trasformata in un grande parco ipogeo destinato a rivitalizzare l'intero Lower East Side. 8.000 metri quadri di percorsi, punteggiati da fibre ottiche, fontane alimentate dall'acqua piovana, ampi spazi verdi e un sofisticato gioco di specchi che convoglierà i raggi luminosi dalla superficie in profondità per permettere la fotosintesi e quindi la crescita della vegetazione. Grazie Alessia. Patrizia, in tutto questo scenario social network in primo piano ovviamente. Sì, in primissimo piano perché di fatto sono lo sfondo esperienziale delle nostre vite e dei nostri consumi. E parleremo anche della frontiera dei social network che, come abbiamo sentito, è la città, cioè il mondo fisico, quello innervato sempre più di sensori e di tecnologie, e le città sono appunto i nuovi ecosistemi in cui il digitale, i social network in particolare, accelerano e innescano sempre maggiori interazioni comunicative con i luoghi e con le persone. Si chiude qui questa prima puntata della nuova stagione di Essere e Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it. Veniteci a trovare su Facebook alla pagina ufficiale di Essere e Avere. Tutto questo in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.